saluto, ciao a tutti, QRT per me, ci sentiamo durante l'anno, ciao. Oh dai, scusate, anche per me va la famiglia per il Vella, ci sentiamo dopo se ci siete, dai, ciao. Ciao, no, di Roma per me, interessante, non c'è? No, no, no, già te lo dico di persona, te... è quella persona che è venuta a pranzo con noi da Walter, se ti ricordi, quella grossa, capito, che stava dando quella roba là. Comunque dai, già ne parliamo di persona, ma per Gavino che queste cose sono cose appunto che io conosco molto bene perché è roba mia e quindi se lo deve fare lo fa tranquillamente, va a fare perché è roba seria, roba nuova e nuova. Il gemello di quello dato a Roberto, non so se te l'ha detto, il digital, ma è spettacolare, spettacolare, che avevo regalato a Roberto. Va bene, vi saluto, dai, comunque con questa mi sentite lo stesso, eh? Sì, e poi rinaggio ormai, cagavino. Sì, ho capito, sono seria, ho capito, capito. Va bene, no, ho provato, ho collegato questa affare come mi ha dato tu, diciamo che a quanto pare le stazionali le sto prendendo sotto controllo anche sulla radio, però io sono riuscito a abbassarle un pochino, abbastanza, caspita, da 1,5 quasi 2 l'ho provata a 1, quindi figurati, ho problemi di antenna, ma sta andando accordato ora, quindi va bene, va bene. E poi niente, mi segna il rate, credo, non lo so com'è che ho toccato il coso. Scusa la frase, mi è uscita. Ma funziona perché l'avevo provato io, sì. Se ti abbasso le stazionali e automaticamente se metti in potenza ti dà anche il watt, perché io li avevo misurati e il Galaxy era preciso, capito? Va bene, dai, ci sentiamo, ciao Gavino, quando vuoi chiamami al telefono, ciao Tino e ciao a Luca e chiunque sia in ascolto, ciao ciao, ti prendi Gavino? Sì, sì, claro, dai, ceno e ti faccio un filo. Dai, mi sta chiamando perché è pronta la cena. Ci sentiamo dopo. Tino, dopo entra, che tanto c'è anche Roberto Quadrato. Ok? Beh, ci sentiamo dopo. Vediamo, dai, vediamo se coincide già, mi fa piacere. Vabbè, ciao, ciao, buona carica. Luca. Quindi sì, così alla potenza minima va bene, se invece attacco la potenza massima cosa succede? Un po' più saturina? È un po' saturina, un po' paperina, non è la tua radio, non è niente a che vedere con la tua radio. Lascia perdere, niente a che vedere col K, quello lo so, però sto dicendo questo è il 2009, non lo uso mai, quindi lo devo usare a potenza minima, va bene. Dalla a me che te lo regolo io e poi te lo prendi. La potenza d'ingresso per l'amplificatore? Io già che non ho problemi, c'è anche il coso, l'Urano, cioè che se ne rivende, bellissima radio, ma a me non mi piace perché ogni volta che la accendi e che la spegni devi andare a rimemorizzare, avete aggregato, è arrivato, c'è una bella radio quella. Poi c'è il 2009, il Tonax 4000 che mi sono tenuto quella roba appunto di Nello, come ricordo, c'ho il 48-28 quello da Inter, che ne ho qua qui, insomma. Vabbè, dai, lo lascio stare così allora, giusto per quando devo andare a salutare, perché il K è 10 metri. Ci sentiamo, sì, comunque funziona, le stazioni te le abbatte. Sì, sembra di così, sembra di sì. Dai, poi già vengo io a fare pulizia qualche giorno a casa tua. Cioè, sentiamo più tardi che vado a mangiare anche io, E già ne abbiamo a fare pulizia, ci abbiamo tutto il bunker da pulire ancora. Per me già lo sai che non mi piace fare baracca e baracchini. Prendo quello che serve, lo duplo un po', poi lo restituisco perché è bello anche utilizzarlo, saperlo utilizzare e poi giustamente torno a casa del padrone. Andare, dai, ci sentiamo. Ciao, fra. Ehi, così faccio io lo stesso. Beh, ci sentiamo, Tino, saluti a casa. Ciao anche a Gavino e agli altri. Ciao, ciao. Ciao, ascolta, domani rientra, sì, vabbè, domani non lo chiamo. No, parte domani, il 4 rientra. Ah, avevo detto il 3, vabbè. Ah, ma mi ha detto il 4. Il 4 è a Sassari, quindi parte domani. Forse ti ha detto partiva il 3. Vabbè. D'accordo. Ma mica hai sentito lei a proposito? No, siamo usciti per messaggio. Ma guarda, se avremo modo, vedremo gli ostesi, poi ti mando una foto. cadere sicuramente dopo che rientra mio padrino, ci facciamo una, un picnic. Ok, ti mando una foto, le ho messe da parte, va bene. Sì, non ti preoccupare, dai, ci aggiorniamo. Gavi, quando hai finito di cenare chiamami al telefono, ciao. Ho mandato una foto. Ho sentito il campanello del pezzo. Questa non è regolata pure, però abbiamo toccata, va bene così la radio. Non tocca, cioè, se non per 20 pieno. Sì, sto andando con quasi 50 watt. Cioè, va bene. Dopo, dai, andiamo a cenare, semmai ci sentiamo tutto acceso qua. Via, va bene, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Comunque c'è il problema iniziale, qualcosa è successo ancora. sì, già controllerò. Ciao Franco, ben entrato, tanti auguri, anche se te l'ho fatto più qua, te lo voglio fare in radio anche. Ricambiati. Non ho capito con chi stai parlando, perché non sento male, non lo capisco. Quello è il più basso di Sassari. Chi? Il più basso di Sassari. Vedi un passo a Sassari. Un tempo dominato come inverso, ti ho sempre notato il culo, adesso purtroppo puoi sembrare solo mattino. Hai capito, Fra, hai capito chi è? Le ali ha perso lo sparviero. Minchia, ma così basso! Oh, non lo capisco, come modulare. Metà quel rem mi arriva. Dimmi una, comunque dai, auguroni anche a Claudio, se c'è. Se basta c'è, se mi sente, niente, buon anno, buon tutto, anche in famiglia. Oh, Tino, e bene va. Sì, perfetto Fra, perfetto, si è fatto un ponticello, quindi, va bene, infatti, ho quasi non sentivo niente, quindi, grazie a te ho risolto. Adesso metto in pratica la fotografia per ricordo, perché sennò poi magari mi dimentico di nuovo. Familiare, quindi Claudio, ti ha salutato Franco, ma mi sembra strano che non arrivi qua. Ma Franco mi tornava, adesso è te, quindi i problemi sono i suoi, non sono i miei. Adesso è te, Franco qua mi arrivava sempre se nuova, quindi non lo so cosa combinando, se l'antenna trattende, se trattende un po' di filo. Adesso è te mi arriva, comunque salutalo, io vado a cenare, vi lascio e vi saluto. Ciao Giannino, un motivo per telefono, ciao. Sì, a dopo. Qua Claudio arriva a 9:20, mi sembra strano che non arrivi a te. Guarda, mi sta arrivando intorno a... vabbè, il Galax è un po', diciamo, avaro, però lui mi arriva qua con un segnale di 4, 4 e mezzo, mi arriva e tutto in mezzo al QRM, c'è un bel QRM. Mi sembra strano, qua è un po' tenso, qua arriva abbastanza forte. Va bene, dai, che io mi devo allontanare, mi stanno chiamando da poco fa a mangiare il morso. Ci sentiamo dopo, se coincide Fra, se ci sei rientriamo. Il caffè, non lo so. Va bene, dai, poi vediamo se ce la faccio, salgo. Niente, ciao Claudio, allora, dai, ciao a te Tino, buon proseguo, buon tutto e buona cena. Ci sentiamo. Via, grazie, ciao, ci sentiamo. A dopo. E avanti. Oh, buonasera. Buonasera Mario. Buonasera Carmino, molto bene. Positivo, sì, hai detto bene. Carmino ormai. Scusa, non avrebbe disturbato un video? Assolutamente no. Ero qua in ascolto. Beh, qua sì, segnale 9, radio 4, la radio non è forte, però il segnale va bene, segnale 9, a picchi positivi, va bene, la radio è 4, non è corposa. Sì, no, c'è l'eco, è un eco che va bene, però non ha aumentato la radio. Sì, a casa, con i parenti, sì, ormai più che a casa non si può fare. Bambina piccola devi stare per forza a casa, per il momento, poi quando sono un po' più grande si potrà uscire, ma in questi anni qua bisogna stare a casa. Poi diciamo che a casa puoi anche bere qualcosa, perché non devi guidare, quindi puoi anche darti, dai, puoi fare qualche esagerazione, perché se ti devi mettere la guida e bere, oggi è un problema. Tu passate a casa? Sì, assolutamente, sono veramente da solo, ho preso solamente il giorno dopo, sono andato a vedere gli altri del classico, di tutti i rigor, mentre sentiamo un po' di diciamo, amici familiari, quindi niente di frattanti, niente di sì, infatti, non, l'importante è quello, poi il resto viene da solo. Ma che radio ti ha usato l'altra volta, Mario? Allora, l'altro giorno, chiaramente la servizio è ancora lì, ho messo dentro te proprio per dire, insomma, che servizi per voi. Stavo usando un CRT 2009, marcato come la diciamo, il Pesonte, in cui sono tutte le cose. Adesso sto usando una Nico D10, che è comunque, come tu hai già, è simile, ma non ha le cose sempre che Kenwood 450 a microfono MC80 e diretto a Grazioli F10 Grazioli F10V come sempre. Ma tu vai di lusso, tu vai di lusso, ma la grande, ma dove ti vuoi modulare? No, negativo, io sono diciamo sorso, periferia di sorso, in campagna, diciamo la fina, strada vecchia di sorso, però io sono di Porto Torres, io prima avevo portato una Porto Torres, sì, però poi sono venuto a vivere qua, circa, sono 4 anni che abito qua, più altre 3 a 500 metri prima, sono 7 anni quasi, e niente, avevo staccato, io prima penso ero entrato in 27, però poi avevo dismesso tutto, ho venduto un po' tutto e circa, dai, diciamo 2-3 mesi fa mi è salito di nuovo il flash di ricomprare un po' di roba e di rientrare, dai, un po' mi mancava. Niente, ho iniziato con un Nikon, un IC737 che poi ho danneggiato e infatti adesso è in riparazione da Bianconi e poi tramite un amico ho acquistato questo Kenwood 450 MC80 e poi ho un'antenna, una Grazioli e niente, va bene così. Caratteristiche di un po' fumo, va bene, e la radio, questo fare, speriti che proprio essere positivo, guarda, non pensare che io sia vecchio, guarda che io ho 39 anni, io non sono vecchio, io non, cioè vecchio, non ho 50, sono giovane, ho 39 anni, devo compiere 40 a marzo se Dio vuole, quindi no, sono uno dei più giovani. No, guarda, vecchi si diventa dopo i 90. Dopo i 90 una persona allora diventa vecchio, perché diciamo che dai 50 in su sei ancora un ragazzo, dai, uno a 50 anni non è vecchio. Era vecchio uno quando aveva 50 anni nel 1900, dai, in tempi antichi sia a 50 anni uno era vecchio. Però ai giorni d'oggi, nell'era del 2000, nell'era odierna, quando uno ha 70 anni, ormai diciamo la vita è lunghissima, ma a parte quando c'è qualche malattia, però quando una persona è sana, di robusta costituzione, arriva a 90 anni in un tiro di schioppo, attenzione, io, cioè, la vita è longeva adesso. Certo, rispetto al Medioevo che si campava fino a 40 anni, diciamo così, oggi ce la teniamo molto meglio, però non lo so, magari io il Medioevo ce la metto in cielo e quindi quello che ci racconta con più aperto, chissà se poi è vero che ci la metto in cielo, io non sono solamente i vincitori e i potenti, però non lo so se... Un uomo, quando è abituato a lavorare, Sì, va in pensione, però deve prendere un pezzo di terreno, avere una avere uno svago, avere uno svago in modo che il corpo continui a fare attività, non attività intensa, come quando si è in piena forza lavorativa, però non bisogna mai, mai, mai, mai passare dal troppo al niente. Beh, certo, sicuramente, su questa ragione, un po' di moto ci vuole sempre, comunque, gradatamente, a seconda dell'età. Ma guarda, io ti dico, io sono stato in palestra con mio figlio, che è già sempre giovane, molto più giovane di me, che sono ai 50 anni, e facevamo molti particolari. E poi sono arrivato a un certo punto che ho dovuto smettere, perché comunque la schiena non mi permetteva di fare certe cose. E niente, niente, tieniti pronto, e te la bravo. Ciao! Mario, buona serata anche a te, una pacca sulle spalle e passatela bene. Ciao ciao. Speriamo, ciao anche a te, ciao, buonasera. Avanti, buonasera. Avanti, buonasera.